Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. C'era stato uno che tutto questo l'ha raccontato. Si chiamava Benedikt Yerofeyev. Aveva 5 anni più di Eduard. Era nato come lui in provincia e dopo essere passato per tutte le tappe comuni alle persone sensibili di quel tempo, l'adolescenza appassionata, la deriva alcolica, l'assenteismo e una vita di espedienti, era giunto a Mosca nel 1969 con un manoscritto in prosa che però lui chiamava poema, come Gogol faceva con le anime morte. Aveva ragione. Mosca sulla vodka è il grande poema dello Zapoi, l'ubriacatura russa di lungo corso a cui, sotto Leonid Brezhnev, tendeva ad assomigliare la vita intera. La squallida, catastrofica odissea dello sbronzo Benedikt fra la stazione Kurskaya a Mosca e Petushki, un centro sperduto all'estrema periferia, 120 chilometri in 48 ore, senza biglietto ma con l'aiuto di un imprecisato numero di litri di alcolici, vodka, birra, vino e soprattutto cocktail inventati dal narratore, che ne fornisce ogni volta la ricetta. La lacrima della Kansamolka, per esempio, è una miscela di birra, white spirit, limonata e deodorante per piedi. Protagonista alcolizzato, treno ubriaco, passeggeri abbinazzati, sono tutti sbronzi in questo libro, basato sulla convinzione che tutti gli uomini di valore in Russia bevono come spugne. Per disperazione. E perché in un mondo di menzogne soltanto l'ubriachezza non mente. Lo stile volutamente enfatico e burlesco è una parodia del politichese sovietico. Le frasi sono citazioni storpiate di Lenin, di Majakovskij, dei maestri del realismo socialista. Tutti gli under, come gli appartenenti all'underground chiamavano se stessi, si sono riconosciuti in questo trattato del fatalismo e del coma etilico. Assiduamente ricopiato, letto, recitato nella cerchia frequentata da Eduard, tradotto in Occidente, Mosca sulla vodka è diventato una specie di classico e Benedikt una leggenda. Fallito metafisico, ubriacone sublime, incarnazione grandiosa di tutto ciò che quell'epoca aveva di vigorosamente negativo. Si andava e si va ancora in pellegrinaggio alla stazione di Petushki, dove da qualche anno si erge anche la statua di Yerofeyev. Punk ante litteram, Benedikt era la derisione e la rinuncia personificate. E sotto questo aspetto l'opposto dei dissidenti, che si ostinavano a credere nel futuro e nel potere della verità. A 40 anni di distanza le cose tendono a essere meno nette. Certo, gli under leggevano i dissidenti e facevano circolare le loro opere, ma, tranne rare eccezioni, non si esponevano gli stessi pericoli e soprattutto non erano animati dalla stessa fede. Solzhenitsyn era per loro una specie di statua del commendatore, con cui per fortuna non avevano nessuna probabilità di avere a che fare. Viveva in provincia, a Ryazan, lavorava giorno e notte e frequentava soltanto ex zec, le quali stava raccogliendo con immense precauzioni le testimonianze sulle basi delle quali sarebbe stato scritto Arcipelago Gulag. Il piccolo mondo gregario, caloroso, mordace di cui Benedikt Yerofeyev era l'eroe e Edich Kalimonov l'astro nascente, Solzhenitsyn non lo conosceva neppure e se l'avesse conosciuto lo avrebbe disprezzato. La sua determinazione e il suo coraggio avevano qualcosa di disumano, poiché Solzhenitsyn si aspettava dagli altri ciò che chiedeva a se stesso. Giudicava vile scrivere di un argomento diverso dai gulag, perché questo significava tacere i gulag. Nell'agosto del 1968, qualche mese dopo il mio pranzo dal consigliere culturale francese, l'Unione Sovietica invase la Cecoslovacchia e represse nel sangue la primavera di Praga. Per protesta contro l'invasione, un gruppo di dissidenti ebbe la singolare audacia di andare a manifestare sulla Piazza Rossa. Erano in 8. E ci tengo a scrivere qui i loro nomi. Larissa Bagaraz, Pavel Litvinov, Vladimir Dremlyuga, Tatiana Bayeva, Viktor Feinberg, Konstantin Bavitsky, Natalia Garbanievskaya, che si era portata il figlio neonato in carrozzina, e Vadim Delaunay, che teneva un cartello su cui aveva scritto «Per la nostra libertà e per la vostra». I manifestanti vennero subito arrestati e condannati a pene detentive di varia durata. Vadim si beccò 2 anni e mezzo. Dopo la scarcerazione e altri guai con il KGB, Il ragazzo con cui ero stato così contento di parlare di Athos, Porthos e Aramis è emigrato. Si è trasferito a Parigi, dove avrei potuto incontrarlo di nuovo se l'avessi saputo, e dove è morto nel 1983, all'età di 35 anni. Edouard ha conosciuto bene tutte queste persone, che trovano grande spazio nel suo Libro dei Morti. Anche per via dell'alcol, la maggior parte di loro è morta giovane. A Edouard piaceva molto Vadim Delaunay, molto meno Yerafeyev. Il suo presunto capolavoro gli sembrava sopravvalutato, come sopravvalutato gli sembrava Il Maestro e Margherita di Bulgakov, il cui culto postumo è iniziato in quegli anni. Il fatto è che a Edouard non piacciono i culti di cui non sia lui il destinatario. Pensa che l'ammirazione riservata ad altri venga sottratta a lui. Da questo punto di vista, la sua bestia nera era Broschi. Rientrato dal suo esilio nel Grande Nord, Broschi viveva a Leningrado, ma si recava qualche volta a Mosca e si faceva vedere, anche se con parsimonia, nelle cucine degli under, che letteralmente lo veneravano. Conoscevano a memoria i suoi versi, le geniali risposte date nel corso del processo, nonché l'elenco dei personaggi pubblici, da Shostakovich a Sartre a T.S. Eliot, che gli avevano espresso solidarietà. Con un paio di pantaloni sformati e un vecchio maglione pieno di buchi, i capelli già radi, troppo lunghi e arruffati, arrivava tardi alle feste e se ne andava presto, trattenendosi appena il tempo necessario perché si potessero notare i suoi modi semplici e discreti. Si metteva sempre nell'angolo meno illuminato e tutti si disponevano in cerchio attorno a lui, rompendo le uova nel paniere al giovane poeta Limonov, che con la sua sfrontatezza e i suoi abiti di velluto cangiante aveva tenuto la scena finché non era arrivato Brodsky. Per consolarsi, Edouard cercava di convincersi che l'aura di Brodsky non era naturale, che Brodsky si era costruito un personaggio. Il mio amico Pierre Paché, che ha conosciuto un po' Brodsky, ritiene che ci sia del vero in questo giudizio. Ma chi non si costruisce un personaggio? Quale semplicità è veramente semplice? Brodsky, in ogni caso, si imponeva per la sua figura non tanto di dissidente quanto di ribelle incontrollabile. Più che antisovietico, era asovietico. Declinava senza scomporsi le offerte di pubblicazione che gli facevano balenare con il solito ritornello: dipende solo da lei essere uno dei nostri, i colleghi dalla schiena più elastica come Yevtushenka. La continua obiezione di coscienza ha finito per rendere Brodsky così irritante che nel 1972 il KGB gli ha intimato di fare le valigie. Che liberazione, deve aver pensato Edouard. Fortunatamente per il suo amor proprio, nel piccolo mondo dell'underground c'era una gran quantità di soldati semplici tra i quali lui e Anna si sono fatti degli amici, molti amici. Il migliore, il più valido degli under era il pittore Igor Voroshilov, ubriacone lirico e sentimentale, esperto nella preparazione dell'Abardan, un piatto per squattrinati a base di teste di pesce. Con lui, Edouard e Anna hanno diviso tutto: la miseria, le bottiglie e la rara fortuna in estate di abitare in veri appartamenti che gli inquilini, partiti per le ferie, affidavano loro in custodia. Edouard apprezzava Igor soprattutto perché non ne era geloso, come mostra la vicenda che segue. Una notte Igor chiede aiuto a Edouard. Ha deciso di uccidersi. Edouard attraversa Mosca per dissuaderlo e trova l'amico palesemente ubriaco. I due parlano. Piangendo a dirotto, Igor spiega a Edouard che non si fa più illusioni, che sa di essere un pittore di second'ordine. Edouard prende la faccenda sul serio. Anche se uno non si uccide, e Igor non si ucciderà, è terribile scoprire di essere un artista e forse un essere umano di second'ordine. È quello che Edouard teme più di tutto al mondo. E la cosa più terribile, aggiunge, è che secondo lui Igor non ha torto. Il futuro e il mercato lo confermeranno. Igor era un bravissimo ragazzo, ma un pittore di secondo e forse di terz'ordine. Quello che sembra terribile a me è la crudele pacatezza con cui Edouard formula una simile constatazione. In seguito, Edouard incontrerà alcune figure dell'underground newyorkese, Andy Warhol, gente della Factory, beatnik come Allen Ginsberg e Lawrence Ferlinghetti, e pur non restandone folgorato, ammetterà che i loro nomi sono passati alla storia. Meritano tutti quanti che si dica di loro «io li ho conosciuti». Invece, a suo parere, degli smoghisti, del loro leader Lyonia Gubanov, di Igor Vorashilov, di Vadim Delaunay, di Halin e di Sabgir e di altri sui quali ho riempito pagine e pagine di appunti che vi risparmio, non è rimasto nulla. Avanguardia superata, catino di acqua stagnante, comparse di un breve capitolo nella movimentata vita di Eduard, gente che però in quel catino ci ha passato la vita. E questo è triste. Una simile miscela di disprezzo e invidia non rende molto simpatico il mio eroe, me ne rendo conto. E conosco a Mosca un certo numero di persone che lo hanno frequentato in quel periodo e se lo ricordano come un tipo insopportabile. Queste stesse persone ammettono però che Limonov era un abile sarto, un poeta di grande talento e, a modo suo, una persona onesta, arrogante, ma di una lealtà tutta prova, incapace di indulgenza ma sollecito, curioso e persino altruista. In fondo, anche se pensava che il suo amico Igor aveva ragione di considerarsi un fallito, ha passato la notte a fare di tutto per tirarlo su di morale. Anche chi non lo amava lo riteneva qualcuno su cui si poteva fare affidamento, uno che non scaricava le persone, e pur dicendone peste corna si occupava di loro se erano ammalate o infelici. E io penso che molti che si proclamano amici del genere umano e si riempiono continuamente la bocca di parole come comprensione e compassione siano in realtà più egoisti e più indifferenti di questo ragazzo che ha passato tutta la vita a raffigurare se stesso come un farabutto. Un particolare. Quando abbandonerà il paese, lascerà dietro di sé una trentina di raccolte messe insieme e rilegate da lui personalmente di altri poeti. Perché, dice en passant, rientra nel mio programma di vita interessarmi agli altri. A Mosca, Eduard e Anna si sono integrati. Le ordinazioni di pantaloni arrivano numerose e i due conducono una vita da bohemien piuttosto allegra. Cominciano però a prendere corpo i timori che aveva Anna prima di partire da Kharkov. La piccola canaglia non la tradisce, perché la fedeltà coniugale rientra nel suo codice morale, ma è attraente, è scoppia di salute e gioia di vivere, mentre lei è grassa e sciupata. Una donna ormai al tramonto e sull'orlo di quella follia che ha tenuto a bada per molto tempo. Anna fa scenate a Eduard, e questa non è una novità, ma non solo. Ha vuoti di memoria e momenti di prostrazione. Comincia a cadere per strada. Un giorno, con lo sguardo fisso, gli dice «Mi ucciderai, so che mi ucciderai». La ricoverano per alcune settimane in un ospedale psichiatrico. Quando Eduard va a farle visita, Anna, il più delle volte, è stralunata, istupidita dai potenti sedativi, ma gli capita anche di trovarla legata al letto perché è venuta alle mani con altre detenute. Detenute e non malate. Tanto il luogo somiglia a un carcere. Quando esce dall'ospedale, la mandano a passare un periodo di riposo da amici di amici che hanno una casetta in riva al mare, in Lettonia. Eduard la accompagna, si occupa della sua sistemazione, si mette d'accordo, a sua insaputa, con Dagmar, la padrona di casa, per farle prendere le medicine. Il padre di Dagmar, un vecchio pittore con la barba che somiglia a un fauno, propone di insegnare alla convalescente, per rasserenarla, la pittura d'acquarello. Bella idea, approva Eduard, e torna da sola a Mosca, dove, la sera del 6 giugno 1971, va alla festa di compleanno del suo amico Sabgir. Sabgir, come Brusilovsky, è uno dei pochi loro amici che nella vita se la sfanga bene. Scrive fiabe piene di orsi e di rusalchi, lette da tutti i bambini in URSS. Ha un bell'appartamento, una dacia e conoscenze sia nell'underground sia nel mondo della cultura ufficiale. In casa sua si incontrano persone come i fratelli Mikhalkov, Nikita e Andrei, entrambi registi di talento, famosi all'estero, non meno abili del padre, celebrato poeta che tra l'alba e il crepuscolo della sua lunga carriera riuscirà a comporre inni sia a Stalin che a Putin, a barcamenarsi tra remissività e audacia. Eduard detesta i Mikhalkov, come detesta tutti gli eredi. Tra gli amici di Sabgir ce n'è un altro che appartiene alla stessa categoria. Victor, un alto apparatchik della cultura, un cinquantenne calvo ed elegante che quella sera arriva con una Mercedes bianca e presenta alla compagnia la sua nuova fidanzata, Tania. Tania ha 20 anni, bruna, longilinea, minigonna di pelle, collan e tacchi alti. Una ragazza del genere Edouard non l'ha mai vista dal vero, ma soltanto sulle copertine delle riviste straniere che la gente si scambia di nascosto. Elle o Harper's Bazaar. Resta folgorato. Non ha il coraggio di avvicinarla. Quando Tania lo guarda, lui affonda il naso nel piatto. È lei ad abbordarlo, divertita dalla sua timidezza. Qualche settimana dopo gli dirà che in mezzo a quella gente disincantata e ben pasciuta, lui con i suoi jeans bianchi e la camicia rossa generosamente sbottonata sul petto abbronzato, era l'unica persona viva. Tania scoppia a ridere quando, nel far saltare il tappo di una bottiglia di champagne, Edouard rompe alcuni bicchieri veneziani. Che lui sia un poeta non ha di per sé niente di straordinario. Il mondo è pieno di poeti. Ma quando, su richiesta di Tania, recita una delle sue poesie, la ragazza sgrana tanto d'occhi. Anche lei, spronata da Victor, ha scritto dei versi. Sono brutti, ma Edouard non glielo dice. Non le dice nemmeno che trova ridicolo il suo barboncino. Mentre due parlano, ridono e ingozzano di caviale il barboncino medesimo, Victor e altri personaggi importanti suoi coetanei confrontano i propri privilegi e se ne rallegrano rumorosamente l'uno con l'altro. Al momento di andarsene, Victor chiede a Tania, con il tono del padre che va a prendere la figlia all'asilo, se si sia divertita. Sabgir, più sagace, ha osservato i due ragazzi con la coda dell'occhio e prende da parte Edouard. Non fare cazzate, gli dice. Non è una per te. All'inizio dell'estate Victor va in Polonia per una serie di conferenze sull'alta missione dell'arte socialista e l'amicizia fra i popoli. E a Edouard capita un colpo di fortuna. Certi suoi amici partono per la Dacia e gli lasciano in custodia un appartamento di 3 stanze in pieno centro. Sarà Tania, per curiosità, a portarselo a letto, non l'inverso. E la prima volta non sarà granché. Con il tempo Edouard si rifarà, ma fino ai 27 anni la sua vita sessuale non è stata certo esaltante. Alle scopatelle di Saltov sono seguiti 6 anni di monogamia con una donna che in realtà non lo eccita ed è più una compagna di sopravvivenza che un amante. Per Edouard, Tania è un extraterrestre. Il corpo esile da ragazza ricca, la pelle incredibilmente liscia, senza una sola protuberanza, senza una chiazza rossa, senza una piega. È quello che ha sognato per tutta la vita, ma non era sicuro che esistesse. Ora che la tiene fra le braccia, lei deve essere sua e mai più di nessun altro. Purtroppo, però, capisce presto che Tania non la vede affatto allo stesso modo. Lei ha approfittato dell'assenza di Victor per andare a letto con quel ragazzo muscoloso, pieno di energia, insieme timido e sfrontato. Ma nell'ambiente in cui vive, andare a letto con qualcuno non significa niente. Tutti vanno più o meno a letto con tutti. È il giovane poeta. Tania non vede perché mai dovrebbe tenerglielo nascosto. Non è l'unico ad andarle a genio. C'è anche un attore piuttosto noto, assiduo di quella cricca di privilegiati che bevono champagne e si spostano in Mercedes. Rimasto senza notizie di Tania, nei giorni seguenti Edouard si arrovella, poi una sera non ce la fa più e va da lei. Suona alla porta con il cuore in gola. Nessuno. Decide di aspettare sul pianerottolo. È estate. Il palazzo, abitato da membri della nomenclatura, è deserto. Non ci sono vicini sospettosi a chiedergli che cosa faccia lì. Un'ora, 2 ore. Passa tutta la notte. Edouard si addormenta, con la fronte sulle ginocchia, svegliandosi ogni tanto di soprassalto. Poco prima dell'alba sente la risata di Tania nella hall, 3 piani più in basso, e di rimando la risata di un uomo. Si nasconde al piano di sopra e da lì vede l'ascensore fermarsi e uscirne, ancora ridendo, Tania, in compagnia del noto attore che la bacia appassionatamente sulla bocca prima di entrare in casa con lei. Edouard soffre. Gli sembra di non aver mai sofferto tanto in vita sua. Per un ragazzo di Saltov, l'unico modo per porre termine a una tale sofferenza è fare ciò che non ha avuto l'occasione di fare 10 anni prima con Svieta e quello stronzo di Shurik: ucciderli tutti e due, lei e il suo amante. Edouard ha ancora con sé il coltello. Lo estrae. Scende al piano di sotto. Suona di nuovo. Nessuna risposta. Non avranno mica avuto il tempo di mettersi a scopare. Edouard scampanella, poi comincia a menare alla porta a colpi minacciosi, come fanno i cechisti quando vanno ad arrestare le persone di notte. I tempi saranno anche diventati vegetariani, ma Tania si spaventa. Edouard la sente avvicinarsi dal fondo dell'appartamento. La ragazza chiede chi è con voce stravolta. «Eddie!» Scoppia a ridere sollevata. «Sei pazzo, hai visto che ore sono?» Si rifiuta di farlo entrare. Lo prega di andarsene, prima in tono gentile, poi in tono meno gentile. «Che problema c'è?» Edouard si taglia le vene sul pianerottolo. Dovranno pure aprire la porta per occuparsi di lui. Nella cucina dove lo hanno trasportato, il barboncino lecca alacremente il sangue che gli cola dal polso. Un'altra avrebbe rotto seduta stante, non Tania, la quale, più che impaurita da questa sceneggiata, è colpita dall'amore del giovane poeta. Nel suo ambiente nessuno è capace di amare in quel modo, selvaggiamente, con intransigenza. Edouard prende tutto troppo sul serio, ma paragonati a lui, gli uomini che conosce le sembrano tiepidi. Inoltre, superato il turbamento iniziale, Edouard si rivela un amante notevole. E i due passano l'estate a scopare in tutte le posizioni e in tutti i buchi, sicché presto Tania finisce per aspettare i loro incontri con la stessa impazienza di Edouard. Quando Victor torna dalla Polonia, si incontrano nell'appartamento di cui Edouard ha il compito di innaffiare le piante. A Mosca l'estate è torrida. Edouard e Tania restano nudi tutto il pomeriggio, fanno la doccia insieme, si eccitano guardando negli specchi il corpo abbronzato di lui e quello bianchissimo di lei. A fine agosto i proprietari tornano dalla dacia e i due devono sloggiare, ma nuovo colpo di fortuna. Un'amica cerca qualcuno a cui subaffittare la sua stanza di 9 metri quadrati, un capitale, che pur costretta a trasferirsi non intende certo mollare, e quella stanza si trova a 5 minuti da casa di Tania e Victor, dall'altro lato del convento di Novodevičij. Per Edouard è un segno del destino. Così, quando anche Anna rientra dalla Lettonia, fa qualcosa che di solito aborre. Mente. Le dice che la stanza che occupavano prima dell'estate non è più libera, che nell'attesa di trovare qualcosa di meglio dorme sul divano in casa di amici dove non c'è posto per due, e che, sempre nell'attesa, le ha trovato un altro divano libero da altri amici. Potrebbe parlarle, dirle che si è innamorato di un'altra. Dovrebbe farlo. La menzogna gli pesa, ma non osa. Ha paura della reazione di Anna, della sua follia, di darle il colpo di grazia. Anna però sembra in forma, serena. L'estate sul Baltico le ha fatto bene, ma Edouard la trova cambiata, e non solo perché sta meglio. Quando vanno a letto insieme, ha la conferma della sua impressione. I gesti di lei non sono più gli stessi. Pur essendo innamorato di un'altra, Edouard ne è turbato. Il mattino dopo, mentre Anna dorme ancora, fruga nella sua valigia e scopre un quaderno in cui lei ha annotato i suoi pensieri. Parla della natura, del mare, dei fiori, della sua nuova vocazione di pittrice e poi, improvvisamente, rivela la sua folle passione sensuale per il padre di Dagmar, il vecchio pittore con la barba che somiglia a un fauno. Edouard è sconvolto, pazzo di gelosia. Intanto Anna si è svegliata e va e viene nella camera. Com'è tranquilla questa donna falsa e infedele. Come sembra avere la coscienza pulita. Edouard non dice nulla, ma la convince a tornare a Kharkov per un po', giusto il tempo che lui trovi una stanza adatta a loro due. Il giorno dopo accompagna Anna alla stazione. senza smettere un istante di pensare al suo grasso corpo sformato, penetrato dal vecchio corpo nodoso del pittore. E non si calma neanche all'idea che lui, Edward, possiede l'esile corpo di quella ragazza ricca, pur sapendo perfettamente che non lo possiede affatto, e che Tania lo usa come le pare senza preoccuparsi di lui. Edward soffre. Compra ad Anna qualche provvista per il viaggio. L'aiuta a sistemarsi comodamente. Si tratta in teoria di una separazione temporanea, ma lui sa che in realtà è finita. Anna non tornerà più a Mosca. Per tutto l'autunno, Edward è divorato dalla passione per Tania. Insieme fanno lunghe passeggiate nel cimitero di Novodevičij, meta obbligata di pellegrinaggio letterario per i cultori di Čechov e degli altri autori barbuti del XIX secolo. Davanti alle loro tombe, Tania, visto che ama un poeta, ritiene opportuno mostrare un atteggiamento raccolto e riflessivo, ma lui, che è glabro, giovane e pieno di vita, e non è attratto né dai pellegrinaggi letterari né dai barbuti del XIX secolo, la scandalizza deliziosamente mettendole una mano sul culo. Il barboncino che ha bevuto il sangue di Edward li segue trotterellando ed emette guaiti lamentandosi mentre loro due scopano sul letto a una piazza della stanzetta di Kamunalka. Tania gode rumorosamente. La babushka della stanza accanto lancia loro strizzatine d'occhio ammiccanti. «Si vede subito», dice Edward, «che quella non è del tuo ambiente, ma si vede pure che tu hai quel che ci vuole nei pantaloni. Secondo me le fai dei giochetti che i suoi amici ricconi non sanno neanche che esistono». A Edward piace molto la babushka e anche la parte del proletario con il cazzo grosso che fa impazzire di piacere la principessa e di gelosia i suoi spasimanti del bel mondo. Tutti sono innamorati di Tania, ma lei ama Edward. Ed è per lui che quell'inverno decide di lasciare Victor. È lui che sposa in chiesa. È con lui che accetta di vivere poveramente, in una stanzetta, qualche volta in appartamenti concessi in prestito. Edward ha vinto. Tutti lo invidiano. Il piccolo mondo dell'underground, dove non si sono mai viste donne così belle e sofisticate, e i ricchi, a cui lo sfrontato poeta in jeans bianchi ha rapito la principessa. Per alcune stagioni, Edward e Tania regnano sulla Bohème moscovita. Se attorno al 1970, nel più tetro grigiore dell'era brezhneviana, c'è stato in Unione Sovietica qualcosa di simile al glamour, ebbene, Edward e Tania ne sono stati l'incarnazione. C'è una foto in cui si vede Edward in piedi, con i capelli lunghi, trionfante, e con addosso quella che lui chiama la sua giacca da eroe nazionale, un patchwork di 114 pezzi variopinti che ha cucito lui stesso, e ai suoi piedi Tania, nuda, incantevole, gracile, con quei suoi piccoli seni sodi e leggeri che lo facevano impazzire. Quella foto Edward l'ha sempre conservata, se l'è portata dietro dappertutto e l'ha appesa come un'icona alla parete di ogni suo alloggio di fortuna. Quella foto è il suo talismano. Quella foto dice che qualsiasi cosa accada, per quanto in basso possa accadere, un giorno lui è stato quell'uomo e ha avuto quella donna. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrère, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.